avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Avviene fatalmente nel corso della vita di ogni essere umano, il giorno in cui si decide di ristrutturare casa. Normalmente la decisione non parte da un singolo membro della famiglia, ma è una decisione collettiva. La casa comincia a diventare stretta, la casa è vecchia, la casa puzza di muffa, non se ne può più di quella casa segnata magari da passaggi di precedenti membri della famiglia che non esistono più. Insomma, bisogna rinnovare, cambiare, ristrutturare. Inizia di solito in famiglia una sorta di consulta, si chiamano i parenti che hanno comunque, anche se millantata, una certa esperienza nel campo, si comincia a ragionare, si cominciano a fare i disegnini con la matita e con il block notice e si cominciano a guardare le riviste specializzate, si cominciano a chiamare i primi consulenti, c'è quel muratore amico di famiglia che tanto bravo potrebbe venire il sabato e la domenica, oppure c'è quel geometra che noi conosciamo che è tanto bravo, lavora al catasto, se viene ti fa un progettino. Si cerca sempre all'inizio di risparmiare, di spendere meno soldi, di farlo in economia, perché si pensa a questo meraviglioso sogno di cambiare vita. Cambiare il proprio habitat significa cambiare vita, o almeno avere l'illusione che intorno il mondo sia cambiato. Ma noi rimaniamo sempre gli stessi e marceremo sempre dentro quella casa se non prendiamo alcune precauzioni. Ok, questa è la mattina del terzo giorno. Ieri abbiamo demolito la casa e ci siamo trovati di fronte a uno spazio vuoto. Abbiamo quindi iniziato a gettare le fondamenta. Ora vi mostrerò una cosa davvero incredibile. In una notte siamo riusciti a tirar su una casa quasi finita e un garage. Connie, guarda la dimensione di questo posto. È bellissimo vederli costruire un armadietto davanti ai nostri occhi. È una famiglia che ha assoluto bisogno di spazio. Per questo riempiremo la casa di armadi e armadietti. Ne finiscono uno al minuto. E sono dei veri professionisti. E non ripetono sempre lo stesso pezzo. Ciascuno è personalizzato. Sono uno diverso dall'altro. Poi, naturalmente, la televisione semina illusioni. Questo è uno dei programmi più seguiti che va nei canali satellitari di Sky. Ma già abbiamo avuto una sorta di spin-off di questo programma anticipatore nelle grandi trasmissioni miracolistiche di Raffaella Carrà. Makeover Home Edition funziona così: una famiglia di morti di fame che vive in una catapecchia viene benedetta un giorno da un gruppo di architetti che efficientissimi dicono vi regaliamo una nuova casa, li sbattono dentro un motel una settimana, in una settimana delle maestranze composte da 100 persone gli rifanno una casa che è una reggia e cambia completamente, entrano, sembra di vedere Cenerentola davanti alla zucca che diventa una carrozza. Ho visto ieri una puntata in cui entrano in questa casa e la mamma dice il parquet per terra, magari abituata a un pavimento di terra battuta, abituata alle formelle anni 70, e hanno fatto delle cose paradossali che in realtà non rientrano nelle banali ristrutturazioni. Ad esempio hanno preso il furgone del padre, l'hanno tagliato a metà, la parte sotto è diventata il lettino di un ragazzino che si taglierà e gli verrà il tetano, la parte sopra è diventata un drive-in in garage, hanno messo il furgone in garage con un maxi schermo davanti e padre e madre la sera le passano seduti dentro il furgone a guardare la televisione. Ma al di là di questi sogni mirabolanti, ognuno di voi, vedo perché già da ieri apposi la notizia su Facebook e oggi ho un cahier de doléances lunghissimo di persone che piangono, si lamentano, vivono nei residence, vivono nelle tende canadesi, hanno fatto coltellate con gli operai rumeni, vorrebbero impiccare gli architetti. Insomma, 800 24 0024, oggi affrontiamo il calvario della ristrutturazione di casa. Puoi guardare le mie applique? Sono bellissime. Janet, tu sei la regina delle arredatrici, anzi l'imperatrice delle ristrutturazioni. Sono contenta che apprezzi le migliorie perché ho appena parlato con un architetto. E perché hai parlato con un architetto? Perché voglio ristrutturare questo garage, amore mio. Guarda qui, c'è una macchia di gasolio in mezzo al salotto. Lo so, lo sai qual è oggi il prezzo del gasolio? Aggiunge valore all'immobile. Una ristrutturazione è estenuante. Prima di tutto devi avere un progetto. Ce l'ho. Poi devi ottenere i permessi. Ce li ho. Eh sì, ma devi anche... Ce l'ho. Ho tutto il necessario e inoltre... Cosa? L'architetto viene da noi stamattina. Sì, ma c'è una cosa che tu non hai. Cosa? Il mio permesso. Ce l'hai? Nella famiglia, quando si parla di ristrutturare, naturalmente si aprono una serie di conflitti. Non tutti si è d'accordo sulla maniera di ristrutturare casa. Ognuno ha un progetto di casa ideale diverso. Bisogna trovare delle forme di compromesso. Ma il vero problema è quando si entra in contatto con questi alieni, con questi estranei, con queste persone che entrano a casa nostra armati di martello pneumatico, di mazzetta, di secchi di calce, e ciò su cui noi avevamo appoggiato la nostra tranquillità, la nostra sicurezza, la compattezza della nostra famiglia, viene immediatamente demolito. Demolizione di solito velocissima, si demolisce subito perché una volta creato il casino da lì non ti muovi più. Il problema comincia quando deve esserci la ricostruzione di ciò che è stato demolito, e lì cominciano probabilmente problemi, per molti problemi, per altri le gioie. 800240024, questa mattina ho anche in studio chi risponderà ai vostri quesiti. Questa non è soltanto una trasmissione di sfogo, ma è una mirabile trasmissione di servizio. Vedrò per quanto possibile aiutarvi, perché anch'io ci sono passato, anch'io porto le dolorose ferite di una ristrutturazione in casa e sto per affrontarne un'altra. Ti convinci e compri casa, e io l'ho fatto, comprato casa, ma non in maniera normale, da ristrutturare. Quanti di voi hanno ristrutturato casa? La parola ristrutturazione nel dizionario è uguale gastrite, perché o dileghi qualcuno o lo fai tu, ed è la fine. Ti scontri con la categoria degli artigiani e non sei pronto. Quando vai dall'elettricista, senta, quando è che potrebbe finire il lavoro? Vedi questo che sposta il mantello di ermellino, si cava la corona col diadema, ti guarda, è così, è così. Questo era Giacobazzi, un comico di Zelig che racconta in chiave comica l'entrata del demiurgo in casa nostra, colui che gestisce i lavori di ristrutturazione, colui che può fare il brutto e cattivo tempo, colui che può darci felicità o può condannarci a un limbo di perenne infernale patimento, quello dell'attesa, quello della sopravvivenza nei residence, nella seconda casa al mare anche a dicembre, nelle case degli amici imprestate o nei bivacchi, come accadde a una collega che penso mi stia ascoltando questa mattina, che andava tutte le sere al cinema verso luglio. Dico, ma perché vai al cinema? Perché non ho casa, mi stanno ristrutturando. Allora, soltanto uno sgabuzzino dove andava a dormire nottetempo lei e il marito, in mezzo ai sacchi di calcina e gli attrezzi delle maestranze, le scarpe sporche dei polacchi, i vestiti pieni di calce, di cemento e degli operai, e lì si accucciavano e dormivano la notte. Non avendo niente da fare andavano a cena al ristorante e passano lunghe serate al cinema. Beh, oggi penso sia felicemente a casa sua. Dicevo, questa mattina sarebbe stata una trasmissione di servizio perché ho chi può aiutarvi. A me ha aiutato molto, lo confesso subito, se no dice, vedi, ti porti il tuo architetto personale. E non ho un architetto ma un'architetta, e si chiama Roberta Vincenzi. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Roberta è un architetto di quelli che stanno nei cantieri, non di quelli fighetti che stanno davanti al tavolo nella loro casa newyorkese, nel loro loft, vi fanno i disegni, vi mostrano le riviste e poi scompaiono. No, è di quelle che si tira sulle maniche, si mette gli stivali e passa le giornate assieme agli operai. Secondo te, Roberta, che di casa ne ristrutturi tante, qual è il primo problema che crea disagio alle persone che affrontano questo pericoloso frangente di ristrutturare casa? Ma guarda, io sono circa 15 anni, ho ristrutturato molti appartamenti e quindi sono entrata in contatto con molte persone. Il problema principale, appena arrivano da me, è una grande confusione. Voglio questo, voglio appartamento magari di 50 metri quadrati, voglio due stanze per i bambini, voglio due bagni. E io inizio invece a riportarli alla realtà. Sì. E poi non hanno, molte volte, almeno che non ha già affrontato una ristrutturazione, idea dei tempi tecnici, dell'iter che bisogna affrontare per arrivare a una ristrutturazione in modo che ci si stressi il meno possibile. Ecco, diciamolo subito per levare ogni illusione, ci vuole circa un mesetto, meno è impossibile. Ma un mese, diciamo, è anche poco, dipende dal tipo di ristrutturazione che devi fare. Perché se tu compri un appartamento completamente da ristrutturare, quindi va rifatto totalmente, con un mese ci fai poco e niente, perché ci vuole innanzitutto un lavoro a monte che si fa tra cliente e architetto, se ci si affida un architetto. Altra illusione è poter rimanere a casa durante la ristrutturazione, come un'amica mia che dormiva nello sgabuzzino. È impossibile. È impossibile, ecco, quello proprio diventa uno dei motivi di stress, perché in certi momenti del cantiere non è abitabile la casa, a meno che non è una casa molto grande, ristrutturi soltanto una parte, una porzione di questo appartamento, cosa che però succede raramente. Tu sai che alle 7 di mattina ti entrano l'opera in casa, ecco. Cominciano a smartellare, a portare dentro la calce, tu devi andare in bagno. Io Anni fa, quando ancora non ti conobbi, ero del gruppo degli inconsapevoli ristrutturatori. Mi ricordo, passai un mese in una casa senza più bagno, che ogni sera mi appoggiavano un water sopra un buco, e mia moglie era incinta all'ottavo mese, quindi non era una situazione divertente. E avevamo anche noi un giaciglio in uno sgabuzzino. No, no, in quel caso tu la vivi malissimo la ristrutturazione, perché già parti proprio disagiato così. La cosa migliore, infatti, è affrontare una ristrutturazione nel periodo magari delle vacanze. Ecco, si va in vacanza e si lascia a casa agli operai. Sì. Considerato che agosto... Agli operai e al tecnico, soprattutto al tecnico. Ecco, diciamo diventa questo. Lui il tramite. Non vorrei farti tirare troppo acqua al tuo mulino, ma in realtà una persona responsabile della ristrutturazione con cui prendersela è più facile che dover inseguire poi l'idraulico, l'elettricista, il piastrellista. Un architetto, certo, quando si prende l'onere di ristrutturare una casa, diventa lui l'unico interlocutore del padrone di casa. Sei tu che fai da filtro tra il committente, che tu tuteli, e l'impresa, i fornitori e l'esecuzione dei lavori. Questo quindi già riduce lo stress, uno se la prende con te invece che andare a cercare i muratori. Sei tu lo che riduce rispondi. Tantissimo, certo. Sentiamo Francesco, buongiorno Francesco. Buongiorno. Buongiorno. La mia non è una ristrutturazione, è una casa costruita nuova, però è stato un anno di autentico patimento, un girone infernale. Beh, però la casa prima non c'era, quindi... La casa prima non c'era, però avevo dei tempi tecnici ristretti, entro un anno dovevo entrare nella casa nuova, e quindi voglio dire, è stato veramente un grande tormento. Solo una domanda, dice un anno di patimenti, ma il suo interlocutore chi era in questo caso? Allora, i miei interlocutori, perché erano tutti dal geometra che ha fatto il disegno all'impresa che ha costruito e tutti gli artigiani che hanno lavorato. Ma una casa non si fa con un geometra, scusi, non vorrei dire, ma il geometra fa un altro lavoro, non costruisce le case. Lei ha voluto risparmiare oppure ha pensato di accontentarsi? Adesso non voglio che in questo momento vengano con i forconi sotto me i geometri organizzati, ma lo sconcio edilizio del nostro paese dagli anni del dopoguerra in poi è proprio perché è stata affidata a geometri l'idea di costruire le case. Lo so, rispettabilissimo. Lo so, però. Il problema non è stato geometra, sono tutti gli altri. Ma chi era il responsabile dei lavori? Il responsabile dei lavori era un geometra. Allora lei se lo va a prendere solo col geometra, perché andava a cercare lei i muratori? Diciamo che volevo seguire da vicino l'evolversi della situazione, e voglio dire, è veramente difficile poter coordinare tutte quelle persone. Roberta Vincenzi, adesso, a parte la fattispecie, questo signore che è diversa dal nostro problema, però ha individuato quello che è uno dei primi elementi di attrito. Il cliente, cioè il padrone di casa, che si mette in mezzo fra il tecnico e le maestranze. Sì. Capita nelle ristrutturazioni. Capita. Cioè tu c'hai fra i piedi le signore e i signori vengono lì mentre state lavorando, vi dicono come mettere la piastrella, come fare la traccia, si impicciano. Capita spesso, non sempre per fortuna, perché si crea poi confusione. Mentre... Il cliente in questo deve affidarsi all'architetto, in questo caso al geometra, certo. A chi vuole? Non siamo tutti uguali. Ecco, premettiamo questa cosa. Io adesso non posso parlare per la categoria in toto. E si deve eventualmente lamentare con il suo tecnico di fiducia. Guarda, tu mi avevi detto che ci mettevano 20 giorni, perché ci mettono 30? Oppure io voglio cambiare, ho scelto la piastrella così, adesso ne voglio un altro tipo, voglio il bagno più grande di quello che mi hai fatto, aggiungimi due punti luce. Anche perché poi la maestranza se ne approfitta. Sì. E allunga i tempi, dice, me l'ha detto la signora, sì, e tu non sì. sai come fare. E qui nasce anche poi l'altro... che è un classico, proprio un problema, il fuori preventivo. Che va comunque calcolato. Che va calcolato, ma questo succede soprattutto quando il committente ha il contatto diretto con la maestranza. Mi aggiungi un punto luce là, mi metti questo, invece della tinta lavabile, usa, non so... Lo stucco veneziano, che va tanto di moda. Senza chiedere ogni volta, ma quanto costa in più? C'è una differenza di prezzo? E alla fine... ti ritrovi alla chiusura dei lavori con magari il 40% in più di fuori preventivo e rimane il cliente allibito. Ma com'è possibile? Io avevo chiesto soltanto quella cosina in più. E non sanno che per mettere un punto luce in realtà c'è tutta una serie di operazioni da fare che richiede comunque tempi. Valerio, buongiorno. Valerio, pronto? Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. E chiedo anche partecipazione di signore, perché visto che hanno voce in capitolo così attiva e così dinamica nelle ristrutturazioni, questa mattina non state ad ascoltare, non rimanete l'ombra, dite la vostra, 80024, 0024, vorrei anche donne che mi dicano il loro punto di vista sulle ristrutturazioni. Valerio. No, io premetto che sono del settore, quindi sono più di 30 anni che lavoro per una grande impresa di costruzioni e quindi ho diretto grandi cantieri in giro per tutto quanto l'Italia, per tutto il territorio. Quindi conosce il suo mestiere. E quindi conosco, diciamo così, conosco un po' le problematiche e quindi io ho costruito il mio primo appartamento e poi nel corso degli anni ne ho ristrutturati altri due. Ecco, però lei ha una sua situazione personale che andrebbe a contraddire l'idea che la ristrutturazione è un grande progetto collettivo che investe tutta la famiglia. Però quello che volevo sottolineare era quello che però ho svolto anche con, diciamo così, consulenze per conto di amici e ho dato una mano a costruire case. E qual è il problema, diciamo, sociale legato alla ristrutturazione? Prima di tutto è la consapevolezza di cosa si vuole fare, qual è l'obiettivo a mio avviso sul quale si vuole arrivare, e cosa si vuole costruire e avere le idee chiare. Quindi ci vuole un progetto, non si può fare una ristrutturazione per step, per fasi, ci vuole un progetto all'inizio. La mia esperienza dice che tanta gente inizia così, guardando una fotografia sui giornali, guardando un qualche cosa, mi piace quel tipo di finestra, quel tipo di tendaggio, quel tipo di mobile, quel tipo di pavimento, e da lì inizia a pensare che tutto quanto sia facile, sia una scatola di montaggio relativamente semplice. La realtà dei fatti bisogna programmare, avere le idee chiare di quello che si vuole fare, andare in giro a vedere e a toccare con mano quello che sono i materiali e le cose e i risultati che si vuole avere. Io ho l'impressione un po' che la ristrutturazione molte volte cominci così, comincia rifacciamo il salotto, poi rifacciamo il bagno, poi rifatto il bagno, già che si mette mano alle tubature si passa alla cucina, fatta la cucina si passa al tinello e poi si va come se fosse una sorta di metastasi, stanza per stanza, a fare la ristrutturazione. Ma questo, Roberta Vincenzi, è la maniera peggiore forse per operare. Sì, è la maniera peggiore perché non è programmata. Quindi è nuovi lavori che si sommano invece a quelli programmati, dove erano già stabiliti dei tempi, quindi magari il cliente ha ancora in mente quei tempi, non so, 2 settimane per rifare il bagno, però nel frattempo ha aggiunto, ma a questo punto io rifarei, visto che si rifà l'impianto elettrico del bagno, anche quello di tutta casa che è vecchio, perché non tinteggiamo tutto? Perché non facciamo un pezzettino di controsoffitto qui, un mobiletto? La tavernetta si triplica, no? La tavernetta è sempre un'idea che viene e poi all'ultimo. Sì. Beh, adesso per fortuna un po' meno. Sì. Qual è il sostituto della tavernetta nell'immaginario coatto di chi vuole ristrutturare casa? Una volta ogni garage era una tavernetta, adesso qual è? Guarda, dopo la tavernetta c'è stata nelle villette c'è stata la famosa sala giochi. Sì. Che praticamente era la parte non abitabile, che molte volte ti vendevano come abitabile ma non aveva i requisiti perché un'altezza inferiore. Ci si mette la PlayStation, la televisione, queste cose qua. Sì, sì. Lo stereo. Sì. Adesso è diventato il bagno. La mamma. Sì. La sì. Mamma nel 4 funziona molto, che poi è uno sgabuzzino delle scarpe dove ci mettono dentro un affare. Il bagno è diventato il luogo quasi più importante della casa. E anche quello più costoso. E ci si vuole mettere tutto. L'idromassaggio, ecco, la vasca e idromassaggio. Beh, si va molto l'idromassaggio. Oggi va anche l'idromassaggio che ha 2 metri quadrati di giardinetto. Anche se devo dire, questo in una mia ristrutturazione di qualche anno fa fu motivo di separazione addirittura della coppia. Almeno la ciliegina sulla torta. Sull'idromassaggio non sì, si trovavano d'accordo. Perché lui voleva la doccia e lei voleva l'idromassaggio. Quindi alla fine scegliemmo una vasca con doccia. E idromassaggio. E poi si lasciarono. Giustamente. E ritornammo alla doccia. Perché la signora aveva delle idee più ampie, più allargate dell'uso della vasca e il marito in realtà non condivideva. 80024 0024, casa ristrutturata da ristrutturare, famiglie distrutte nella ristrutturazione, tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0 800 24 0024. Oggi parliamo di ristrutturazione, lo facciamo con l'architetto Roberta Vincenzi, che è in studio qui con me, che mi diceva nella pausa però che in realtà l'architetto responsabile della ristrutturazione, l'unico interlocutore dovrebbe avere il ristrutturato, per non perdere tempo a litigare con muratori, idraulici, piastrellisti, che poi magari se ne approfittano pure. In certi casi diventa anche uno psicologo. Una delle fattispecie di separazione che ho più visto è proprio di coppie che nel periodo stressante della ristrutturazione non riescono a trovare un punto d'incontro e si separano. Sì, mi è capitato più di una volta. Coppie dove logicamente ci sono già dei problemi a monte. Che esplodono durante la ristrutturazione. E beh, la ristrutturazione mette a dura prova. Cioè, se siete già in crisi nella coppia, non andate a ristrutturare casa pensando rifacciamo il nostro nido d'amore, cambia sì, tutto. Sì, in genere si parte, dice beh, rifacciamo casa, e come... quasi certe volte equivale quando sta in crisi facciamo un figlio. Esattamente, che è la cosa peggiore. Che è la cosa peggiore. E a me è capitato più di una volta durante la ristrutturazione, quasi nella parte ormai finale, di separazioni. E io dal ruolo di architetto sono passata poi al ruolo di confidente, di cosa di accade psicologa. In quel caso? Che poi la casa che era fatta per una coppia diventa una casa da single. Allora, una volta mi è capitato che sì, il motivo di litigio era, diciamo, sulla vasca da bagno. Lei voleva un idromassaggio, lui voleva la doccia. Sì. Era il sintomo però di un malessere che sì, già esisteva. Sì, sicuramente. Dopodiché loro si dovevano anche sposare, era già organizzato il matrimonio, si sono lasciati e quella che era nata... il nido d'amore? Come, sì. È stata trasformata già a lavori in corso in garçonnière per la signora o il signore. In una casa da single, quindi con alcune modifiche, cioè mettendoci poi i desideri di lui, solo i desideri di lui. Beh, una bella acchiappata per un architetto, scusa. Doppio lavoro in sequenza velocissima. E devo dire che la casa poi venne molto... molto bene. Tu hai lavorato due volte nella stessa io casa. Ho lavorato quasi due volte, sì. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo per portare la mia testimonianza. Non entrerò troppo nel dettaglio perché non vorrei abusare del tempo. Sembra che parliamo fra alcolisti anonimi. Mi chiamo Andrea e anch'io ho ristrutturato casa. No, io sono in una situazione mi sono trovato in una situazione peggiore. Ossia, io ho comprato una casa da già ristrutturata. Questa meglio, è la peggior fregatura. Che doveva essere ristrutturato e questo sedicente costruttore venditore me la vendeva già con il progetto finale. Quando poi dopo ne sono entrato in contatto, visto che poi le cose non erano state fatte come devono essere fatte. C'era tanto cartongesso, scommetto. Oh sì, sono riuscito ad abbassare, diciamo, il prezzo del rogito e poi però quando ho cominciato i lavori ne sono saltate fuori di tutti i tipi, ma le cose... delle cose dove veramente c'era della volontà di fare del male. No, di risparmiare perché soldi. Altrimenti un artigiano non farebbe, non risparmierebbe 50 centesimi per fare qualcosa che poi a mettere a posto ce ne vogliono 300 euro. Ma su, che gli importa? 300 euro li mette lei, mica l'artigiano. Sì, però i 50 centesimi non ti spostano niente. Cioè, ma in chiave esponenziale spostano sulla quantità poi. Era stata creata ad hoc una specie di fioriera di fianco a una scala molto grande e mi era stato detto, ah sì, ma c'è un po' di bagnato, ma perché sarà da rifare la coibentazione in catrame del fondo della fioriera. In realtà la fioriera era il coperchio messo sopra a una vecchia bagno precedente, perché la casa era molto vecchia, in cui era stato poi fatto confluire una vecchia turca, era stato fatto confluire un altro scarico di un altro bagno. Ma che schifo! Era stato portato il tubo sulla turca, ricoperto di rottami e poi sopra costruita la fioriera. Quindi emanava liquami di un vecchio gabinetto turco. Tutte le volte che qualcuno usava questo bagno traboccava chiaramente scarico, perché era una fioriera la turca. No, era un progetto raffinato, una fioriera autoconcimante. Ognuno che andava in bagno concimava i fiori. Beh, diciamo in questo caso è stata anche la denuncia. Tracolava anche poi l'odore. Ecco, quali sono gli strumenti che ha un signore come questo che capita in una situazione così? Lei poteva denunciare questa situazione, perché questi sono i cosiddetti danni occulti. Lei ha davanti una fioriera e poi scopre che è un'altra cosa. Il tappo... In Italia purtroppo ci sono le SRL, quindi invito tutti a cercare di non avere a che fare con SRL, perché le SRL limitando la responsabilità, il capitale della società. Il capitale non è mai tale da coprire i danni, vengono fatte per ogni intervento di ristrutturazione, questi costruttori fanno una società nuova. Ma questi costruttori ormai sono speculatori. Non ci mettono niente. Sono in caso di atti che coinvolgono il penale, allora c'è la possibilità di intentare una causa. Altrimenti una causa contro una causa civile contro una società SRL ti può portare a vincere, ma vincerai contro una scatola vuota e sarai costretto a pagare tu stesso le spese processuali. Uh-huh. Ti diranno sì, hai ragione, però intanto adesso paghi tu, perché dall'altra parte c'è un SRL che è chiuso, che è fallita. Allora Andrea, vediamo di trarre però un consiglio pratico. Roberta Vincenzi, il consiglio è, secondo me, per quella mia esperienza, non comprare mai case già ristrutturate. Meglio comprare una casa disastrata e metterci le mani. Già ristrutturate, e l'altra cosa è mai comprare una casa sulla carta. Cioè bisogna vederla prima che sia costruita. E questo è una modalità che in questi anni è andata molto. Adesso devo dire, viste poi i problemi che sono sorti, la gente è più accorta. Sì, c'è gente che rinuncia proprio. Però tu andavi dal costruttore negli uffici tecnici, ti facevano vedere come sarà la sua casa, quindi un disegno anche bellissimo, con dei tempi che poi non venivano mai rispettati. Poi c'erano fallimenti, sì, società, passaggi, sì, di mano. Io conosco persone che 5 anni fa dovevano entrare in una casa che ancora non è stata nemmeno iniziata a costruire. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente qualcuno ce l'ha con gli architetti, sennò sembra che io prendo la stecca dagli architetti. Avanti. Allora, guarda, io vengo da 5 anni di ristrutturazione, nel senso che ho comprato un casale in campagna che stava in buone condizioni, quindi diciamo ci sono andata a vivere. E però piano piano l'ho rimesso a posto, questo mi ha consentito di starci dentro e fare i vari piani un po' per volta, quindi nel tempo diciamo, anche, no, consente anche di capire meglio quello che uno vuole, eccetera. Il problema il problema adesso, appunto, ce ne sono stati ovviamente numerosi, però insomma io vorrei spezzare una lancia a favore dei proprietari che si occupano della propria casa nel dettaglio, perché io ho avuto due architetti che hanno seguito la casa, i lavori della casa. Allora, il primo, che vabbè, poi ha avuto anche problemi personali, credo da un po' andato fuori di testa, mi ha lasciato con una parte della casa senza l'agibilità del genio civile, nel senso che era una parte costruita ex novo, da un terrazzo si era ricavata una stanza. Insomma, aveva fatto un piccolo abuso. Come? Aveva fatto un piccolo abuso. Sì, sono sotto una tempesta allucinante con tuoni, fulmini e secche. Lo so, è una situazione che preoccupante nel nord Italia, sta scendendo verso il centro Italia. Io sono al centro, mi sono fermata con la macchina, ma giustamente guardi un nubifragio. Vabbè, diciamo, il primo architetto è andato via di testa, quindi... È andato via di testa. Il secondo? E comunque fatto sta che io mi ritrovo una parte della casa che non è agibile, cioè non ha l'agibilità del genio civile. Io credo di essere, poi la sua architetta mi consiglierà, ma nelle condizioni di fare una denuncia, non la faccio per motivi umani, ma insomma, ecco. Andiamo al punto. Nel secondo caso io mi sono ritrovata con il costruttore, di cui nel frattempo ho imparato anche a fidarmi, che era molto più sensato dell'architetto, per cui non so, l'architetto insisteva a costruire un muretto all'inizio di uno scivolo. Si risponde da sola. Se lei ha questa sua vocazione di dirigere i lavori, fa bene a dirigerli di persona. No, io non ce l'ho, perché poi guardi, io stavo in Afghanistan in questa fase dei lavori, quindi proprio non ce l'avevo. Io volevo un architetto che si occupasse delle cose. Lo so, ma dopodiché mi sono trovata con architetti che avevano delle idee che poi erano assolutamente, ma non condivisibili su un piano estetico, ma proprio non sensate su un piano pratico. Roberta Vincenzi, sentiamo un po' la signora, che è capitata un po' male, ma può capitare. A questo punto, signora, scelga un terzo architetto e sicuramente andrà meglio. Può capitare. Magari una donna. Anche nella categoria degli architetti, cioè chi insegue sogni frustrati di grandi architetture d'avanguardia. Anche perché il primo collega purtroppo non fa testo, perché se no da fuori di testa. Mi sembra capito, ha fatto un abuso edilizio da sanare e l'ha lasciata con l'abuso in mano. Forse la signora, che se all'Afghanistan seguiva un po' più da vicino. Sperando che sia sanabile, se no la signora si dovrà tenere l'abuso. Se no rischia anche quello. Tiziana. Salve. Appena finito di ristrutturare casa. Buongiorno. Dunque, io vorrei fare una piccola nota su quello che ha detto adesso la signora architetto che è lì da loro. Sì. Giusto, scegliamo una donna. Intanto le donne hanno un'idea della casa completamente diversa, anche come architetto, hanno un senso fattivo migliore. Io l'ho scelta perché le donne puzzano meno degli uomini, solo per questa ragione. Mi scusi? Io l'ho scelta perché le donne puzzano meno degli uomini, preferisco avere una donna per casa. Sì, a parte che puzzano meno, hanno anche un'idea di come si vive. Gli architetti di solito quando stanno molto nei cantieri c'è quello d'orino, un po' di sudaticcio. E poi c'è quest'altra cosa, chi è che sta nei cantieri? Perché non tutti gli architetti stanno nei cantieri. No, quella che sta qui l'ho vista io, guardi, l'ho vista io coperta di calcina. No, io sto dubitando della signora, lungi da me una cosa del genere, assolutamente, anzi il mio è un plauso. Però voglio dire che il problema vero della ristrutturazione è che sì, si va dall'architetto, sì, si va dall'ingegnere, sì, si va dal geometra, per esempio in alcune zone... ad alto tasso di geometri. Sì, in alcune zone c'è l'inno ai geometri. Però non è tanto quello, è che se sul cantiere tutti i giorni non ci va qualcuno, è l'anarchia. E i lavori si protraggono all'infinito. Gloria alla signora che passa le sue giornate sul cantiere. No, chiariamo, io non per cui in un mese riesce a ristrutturare una casa. No, signora, io non passo le giornate in cantiere perché non è il mio ruolo quello. Io vado molto spesso in cantiere. Chi deve passare la giornata in cantiere è una figura che in realtà spesso manca, il capo cantiere. Perché diventa lui responsabile del cantiere. L'architetto è responsabile dei lavori. Quindi il mio referente non diventano i 10 operai, ma diventa il capocantiere, che ci deve essere sempre. Quindi bisogna creare un workflow, una struttura gerarchica parte naturalmente dal proprietario della casa che decide il progetto, l'architetto che lo stabilisce e lo realizza, il capocantiere che poi ha il contatto fisico con le maestranze. L'architetto poi deve essere molto presente in cantiere, perché tante volte magari non tutti capiscono il progetto... O ci sono degli interventi che bisogna fare e decidere su delle situazioni. Però ecco, ci deve essere il capocantiere. 800240024, ci lasciamo un istante per le informazioni del traffico, poi riprendiamo per l'ultima parte dedicata alle ristrutturazioni. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Sapevo che avrei acceso una guerra tra bande e tra po' ne avrete senz'altro testimonianza. Intanto sentiamo Alfredo. Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua, Alfredo. Buongiorno. Sì. Buongiorno, architetta. Senti, io chiamavo perché praticamente sono passato prima per una strutturazione di casa e adesso per un locale commerciale. Sì. Il problema che ho sempre notato è che queste imprese, pur di prendere i lavori, ne prendono più messi insieme e creano problemi poi per i proprietari. Certo. Io mi ritrovo con un locale che devo aprire, mi devono finire i lavori entro 70 giorni e mi ritrovo a 6 mesi che ancora ho gli operai dentro il locale. Perché arrivano, demoliscono e scompaiono, questa è la prassi, è normale. No, dice bene, hanno più cantieri in corso, quindi iniziano, poi un giorno non vengono, il giorno dopo stanno. Anche una volta demolito, tu devi comunque concludere il problema, quindi la demolizione è istantanea. Sì. E poi, ecco, in questo caso cosa si può fare? Beh, in questo esiste caso un protocollo con delle penali. Lo strumento più valido è il contratto dove sono previste delle penali. Penali che devono essere poi proporzionali ai tempi di ritardo. Almeno in genere io li metto così. Massimo, buongiorno Massimo. Elettricista. Massimo, buongiorno. Massimo, elettricista, dice, ha arricchito molti architetti. Buongiorno. Pronto? Eccoci qua, Massimo. Sì, allora, sì, mi sento un po' male, sono in automobile con viva voce. Ma... No, il viva voce non va usato per quando si parla alla radio. No, ma la radio è spenta. No, lei dovrebbe fermarsi un attimo e parlare con il telefonino in maniera normale. Ah, ho capito. La voce. Allora, mi fermo un secondo. Ecco. Insomma, no, la mia esperienza è stata soltanto questa. Io ho fatto 10 anni di installatore. Mi sono scontrato veramente, più che incontrato, con un discreto numero di architetti, dei quali, devo dire, per la mia esperienza, dai quali diciamo, la categoria non usciva benissimo, perché ho incontrato gente che aveva delle menti vulcaniche per le soluzioni che riuscivano a partorire, da un punto di vista estetico, salvo poi scontrarsi con una funzionalità quando andava bene discutibile, quando addirittura invece cose sono... Faccia un esempio, cosa le chiede un architetto che lei non può realizzare? Guardi, a me è capitato una volta in un soggiorno che di dimensioni enormi di dover infilare i cavi in una tubazione che era lunga qualcosa come 16 o 17 metri, con almeno mezza dozzina di curve di cui alcune anche strette a 90 gradi, dove la sonda per passare i cavi non passava, e questo signore non aveva previsto una scatola di derivazione. Lo so, quello è un problema. E questo è stato un esempio proprio macroscopico, perché abbiamo rischiato di arrivare, diciamo, anche a un brutto punto con questa persona, che fra l'altro era un amico del mio principale. Ecco, Roberta Vincenzi, questo non può accadere, che viene stabilito un impianto elettrico senza le scatole di derivazione e non passa il passacavi. Di solito vengono progettati al computer. Ci deve essere un progetto, e nel progetto c'è anche la progettazione dell'impianto elettrico. C'è proprio un disegno sull'impianto elettrico, e in genere se ne discute anche prima con l'elettricista. Mi dà l'impressione che il suo lavoro fatto occhio, se tu non prevedi... Poco programmato, perché... io faccio progetti di impianti elettrici, non sono un elettricista, ho logicamente dei dubbi, e allora in quel caso mi rivolgo all'elettricista e chiedo conferme, guarda, io vorrei adottare questa soluzione, e lì si trova un modo per poi attuarla insieme, prima però di trovarsi è un classico, in diciamo, corso d'opera. Il cavo insfilabile che dovrebbe essere sfilabile. Danilo, ecco Danilo. Danilo, buongiorno. Geometra, sì, lo sfracello delle città non è colpa nostra, ma degli architetti e dei privati al massimo. No, ascolti. Ognuno qua ha le sue responsabilità, cioè. Nel senso. Prima ho sentito dire che lo scempio delle città, di certe zone... ho detto le periferie italiane, l'allargarsi delle campagne. Guardi, e le villette bifamiliari, le casette bifamiliari. Il problema è che i geometri costruiscono dove? I piani regolatori... Ma il geometra non dovrebbe costruire, secondo me, scusi. Il geometra non dovrebbe costruire, secondo me. No, il geometra ha la possibilità di costruire, fino a certi interventi può farlo. È la sua, lo può fare. Casette... piccole palazzine, ma è quello il problema, ogni geometra fa la sua casetta a modo suo. Ma anche l'architetto fa il palazzo a modo suo adesso. No, gli architetti hanno fatto degli scempi in Italia, che di solo lo sa, penso allo Zen di Palermo, penso a Corviale, figuriamoci. Gli architetti hanno... voglio parlare di professionalità, sì. Io ritengo questo. Allora, faccio un esempio stupido. Se io ho mal di orecchie, vado dall'otorino, se ho mal di denti, vado dal dentista, se ho bisogno di fare, c'è uno specifico, il geometra può fare tutto. L'architetto può fare tutto, l'ingegnere può fare tutti, tutti possono fare tutto. E questo secondo me è l'errore. Non ci sono le competenze. Invece, secondo me, dovrebbero dividere le competenze. Il progetto lo fa il progettista, la direzione lavori la fa il geometra. Esattamente. Le strutture li fa, ma proprio come firma, come competenza. Vi faccio un altro esempio. Non lei sta dicendo esattamente quello che diceva prima Roberta Vincenzi. Fino a un certo punto. No, mi dissocio abbastanza. Sentiamo il punto. No, ognuno ha le sue idee. Le faccio questo esempio. Allora, lei mi dica esattamente, ho due minuti, voglio chiuderla in maniera... mi dica la gerarchia delle competenze. Il progetto lo fa l'architetto. Ma allora, se io sono un geometra, parlo anche al mio, diciamo, tra... Sì, dica, perché c'ho un minuto, se no la posso far finire. Per esempio, la progettazione dovrebbe essere in mano degli architetti. Sì. Tutto quello che riguarda la topografia, il catasto, i rilievi e tutto quello il che geometra. Viene intorno al fabbricato, il geometra. Giusto. Sono d'accordo. La parte strutturale, come si dice, il calcolo, il cemento, queste cose, l'ingegnere. E tutta l'impiantistica a seconda di chi fa gli impianti. Questa, fermiamoci un attimo. Sì, ok, fermiamoci un attimo, sennò Roberta, il punto di vista su questa suddivisione dei ruoli sono d'accordo, che poi il geometra, l'architetto può fare il ma io che sono il committente, quante persone devo pagare, un architetto, un geometra, un ingegnere? No, dipende anche dall'entità di lavori. Ristrutturare casa, per questo è il problema. Una casa basta una sola persona, poi sarà l'architetto che, se ha bisogno, si avvale di consulenti. Quindi il mio referente, beh, chiaro, tu tiri un po' acqua al tuo mulino, ma il referente comunque è l'architetto. Rimane sempre, in questo caso, è chiaro, se tu devi fare dei calcoli sulla struttura non puoi firmarli te, devi farli fare a un ingegnere. Ma non ci si rivolge il committente. L'architetto è la persona che gestisce il progetto. Sì. Che poi, se a dirigere i lavori ci mette un geometra, buon per te. I geometri sono i migliori direttori di cantiere, perché parli con una persona competente. L'ingegnere... da legge deve fare lui, prendersi lui la responsabilità di certi calcoli sulle strutture. Uh-huh. Quindi non potresti mai firmarli te, e questo va da sé. Quindi mi sembra che abbiamo composto perfettamente la questione, rimanendo la mia idea che i grandi architetti, le archistar, hanno rovinato le grandi periferie con le loro idee funamboliche. Ho citato Corviale, ho citato lo Zen di Palermo, potete fare altri mille esempi. Il paesaggio italiano è stato rovinato dai geometri, dalla casetta a due piani con i terrazzini, che ha invaso con una struttura inesistente quelle che erano